e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chi comincia? Ormai hai cominciato tu. Chi buongiorno. Arriva male alloggia, buongiorno a tutti, benvenuti a Cuore Denari. Allora, questa mattina una puntata un pochino speciale. Sì. Perché naturalmente lo avrete sentito anche nelle trasmissioni che ci hanno preceduto, c'è una giornata di agitazione delle rappresentanze sindacali unitarie, quindi incrociano le braccia i nostri assistenti ai programmi, i tecnici e non solo. Di conseguenza avremo una puntata un po' particolare, andiamo in onda regolarmente naturalmente, ma mancherà qualche cosina, però faremo in modo che non ne sentiate tanto troppo la mancanza. Potete comunque scriverci al 349-238-6666, guidarci con i vostri messaggi o i vostri WhatsApp. Esatto. Allora, di che cosa parliamo? Intanto fra un po' vi faccio un pochino di punto della situazione sull'andamento dei mercati finanziari. È una giornata di attesa per la riunione della Banca Centrale Americana. Il braccio operativo della Banca Centrale Americana ha iniziato il suo meeting ieri sera. Si tratta del Federal Open Market Committee ed è la struttura che decide cosa fare in termini di tassi di interesse. Lo sapete bene, stasera verrà formalizzato il primo aumento dei tassi di interesse del 2017. I tassi americani, i cosiddetti Fed Funds, verranno portati verso l'alto in questo corridoio compreso fra lo 0,75 e l'1%. Su queste attese naturalmente si muovono i mercati, anche se c'è, Nicoletta, da considerare che Wall Street ha anche un altro problema in queste ore, la tempesta di neve che sta bloccando evidentemente le contrattazioni, anche se si fa tutto a livello telematico, però qualche operatore nel palazzo appunto di Wall Street deve soffrire andare. Anche lui il mal di neve. Sai che c'è il mal di neve? C'è il mal di neve? Ma alcuni parlano di una sorta di disagio che alcune persone in termini concettuali ce l'ho pure io, perché quando vedono tutto quel bianco, sai? Sì, lo so se sia vero o no, magari qualche medico. Però ne arriva tanta a New York in queste ore, sono bloccati migliaia di voli da e per gli Stati Uniti, per cui c'è anche questo tema. Ritornando un po' ai nostri temi finanziari, la seduta di borsa oggi vede Milano in rialzo dello 0,62%, Parigi più 0,19%, Francoforte più 0,14%, Londra più 0,08%, con l'avvio formale a questo punto di Brexit. Abbiamo avuto un nuovo ribasso della sterlina nelle ultime ore. Abbiamo adesso, tra l'altro, proprio pubblicato poco fa il tasso di disoccupazione della Gran Bretagna, che a fine gennaio si attesta al 4,7%. Occhi puntati oggi anche sulle elezioni generali in Olanda, il primo voto politico rilevante nel 2017 in Europa, aspettando la Francia, e sapete quanto la variabile politica abbia condizionato in questi ultimi mesi l'andamento dei mercati finanziari, dopo l'effetto fortissimo provocato dall'inaspettato voto per Brexit e anche dall'inaspettato voto americano appunto per Donald Trump. I temi di Piazza Affari, vi dico i titoli che stamattina stanno correndo particolarmente: Banco BPM più 2, CNH Industrial più 1,79%, Tenaris più 1,70%, Buzzi Unicem più 1,59%, Fiat Chrysler più 1,54%, Mediobanca più 1,41%, Saipem più 1,37%. Andiamo invece dall'altra parte della classifica, dove vediamo il netto ribasso di Salvatore Ferragamo, meno 4,18%. Allora, il gruppo ha pubblicato i suoi conti ieri sera, sono stati molto buoni, in linea con le attese della comunità finanziaria. Allora si dirà perché il titolo scende tanto: perché era ai massimi dall'agosto scorso, e quindi sulla notizia gli operatori ne approfittano e portano a casa un po' dei profitti, appunto dei risultati incassati con le sedute appunto recenti che hanno visto il titolo schizzare verso l'alto. Peraltro c'è anche un'altra notizia che riguarda la moda in borsa, Nicoletta, perché sembra che Valentino e Furla stiano scaldando i motori per quotarsi presto a Piazza Affari. E ci sono naturalmente, lo racconta il Sole 24 Ore questa mattina nell'articolo di Carlo Festa, molte banche in fila per le prossime IPO del lusso a Milano. Ci si è sempre molto lamentati che questo comparto abbia avuto sempre questa resistenza ad andare in borsa, a raccogliere capitali appunto sul mercato azionario. Invece a quanto pare anche i big del settore si stanno dando una mossa. Esatto, adesso ne parleremo, magari prossimamente terremo sotto osservazione. Un'altra notizia che voglio raccontare prima del nostro approfondimento di oggi, che riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta definizione agevolata, e poi oggi sui giornali si parla anche di un tema molto caro agli ascoltatori, le abitazioni e il catasto. A quanto pare sarebbe pronta a ripartire la riforma appunto di questa fotografia scattata sugli immobili italiani. Prima di questo vorrei raccontarvi di un altro articolo sul Sole 24 Ore che ci fa il punto della situazione sulle adesioni all'offerta pubblica transattiva lanciata da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Come sapete, appunto, tutti gli azionisti che hanno visto azzerato il proprio capitale, gli azionisti appunto di queste due banche, azionisti di due banche non quotate che si sono visti in questi due anni appunto azzerato il proprio capitale, hanno questa opportunità di aderire a questa offerta pubblica transattiva, che però riconosce una quota molto parziale dell'investimento inizialmente fatto, che non supera il 15%. Le adesioni inizialmente sono procedute con forte rilento, adesso ci sarebbe stata un'accelerazione, anche perché appunto le due banche che stanno chiamando anche abbastanza con insistenza, insomma, tutte le persone coinvolte, e per capire se intendono aderire o meno all'offerta c'è come dire, la necessità che l'offerta abbia una chiusura con almeno l'80% appunto delle adesioni. Secondo quanto dice il Sole 24 Ore sarebbero già arrivate a circa il 60%, in particolar modo dei 94.000 azionisti individuati come destinatari dell'offerta pubblica per la Popolare di Vicenza ne avrebbe contattati circa 90.000, 4.000 non sarebbero in alcun modo reperibili, e sarà su questo perimetro, racconta stamattina Katy Mandurino del Sole 24 Ore, che si calcolerà la percentuale delle adesioni, per le quali c'è tempo fino al 22 marzo, non ci saranno presumibilmente dilazioni o proroghe, e la banca fa sapere anche che sabato prossimo tutti i 400 sportelli appunto dell'istituto di credito saranno aperti a disposizione dalle 9 alle 14 di tutti gli azionisti che vogliono maggiori informazioni sull'offerta o meno. E quindi, insomma, si va avanti, vedremo tra qualche giorno la chiusura o meno dell'operazione. Detto questo, il tema su cui ci soffermiamo invece oggi come primo approfondimento di denari riguarda il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali, perché insomma c'è stato questo andirivieni sulla proroga della scadenza per fare richiesta di questa definizione agevolata, come si chiama in gergo tecnico fiscale. Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore, benvenuto, ciao, eccoci a noi. Buongiorno, ciao, anche Cristiano. Agli ascoltatori. Allora, ascoltatori che appunto ci possono scrivere al 349-238-6666, e quindi avete come sempre l'opportunità di farci delle domande. Allora, si era ritornata a parlare negli ultimi giorni della necessità di prorogare i termini di chiusura dell'operazione in senso di richiesta da parte dei contribuenti che vogliono aderire alla rottamazione appunto a fine marzo. Si era discusso della necessità di prorogare almeno fino a metà aprile, poi c'era stato la marcia indietro, mi pare che adesso invece l'intenzione sia quella di portare avanti questa proroga, Cristiano. Eh sì, diciamo che adesso c'è la volontà politica, è stata ribadita anche ieri in ambienti governativi, di prolungare la data entro cui è possibile presentare le istanze di definizione agevolata fino al 21 di aprile. Questa sarebbe la data nuova da annotare in calendario. Dico sarebbe perché per il momento non è una scadenza formalizzata. C'è stato un po' un pasticcio perché si è tentato di inserire l'emendamento che conteneva la proroga, quindi il prolungamento al 21 aprile, nell'ambito di un decreto legge che attualmente è in conversione in Parlamento e che riguarda però il terremoto, quindi riguarda tutt'altro. Il tema, infatti, come dice anche il Sole 24 Ore stamattina nel pezzo di Marco Mobili e Giovanni Parenti, è capire il veicolo all'interno del quale inserire l'eventuale provvedimento di proroga. Perché diciamo l'emendamento in prima battuta è stato definito inammissibile perché, per così dire, fuori tema rispetto all'argomento del decreto legge in cui è stato appunto come se qua da noi non succedesse mai di infilare in qualche provvedimento che ha come un determinato tema o oggetto. No, diciamo che quello è un mal costume abbastanza frequente, ecco, nella decretazione d'urgenza italiana. Chiaro, no, no, assolutamente. Abbiamo addirittura dei provvedimenti che si chiamano mille proroghe proprio perché ci si infila dentro di tutto. Sì, diciamo che da questo punto di vista il mille proroghe sarebbe stato un buon veicolo, però ormai quello è andato. E a questo punto bisognerà capire, lo vedremo tra la giornata di oggi, forse di domani, se l'emendamento verrà recuperato e verrà comunque ritenuto accettabile. Non dovesse essere così, si potrebbe tentare o con un altro decreto legge, che è quello sugli enti locali, anch'esso da mandare in conversione nei prossimi giorni, o addirittura il governo potrebbe intervenire con un decreto legge a sé. Diciamo che ieri è arrivata la rassicurazione che comunque chi non dovesse fare in tempo entro il 31 di marzo avrà queste tre settimane in più circa ad aprile. Tra l'altro, perché si è aperta la necessità appunto di fare questa proroga? Perché si è calcolato che i contribuenti che stanno aderendo sono meno delle attese, oppure no, c'è qualche altra problematica di natura tecnica? No, nel senso che le adesioni stanno andando molto bene. Addirittura nei giorni scorsi il l'amministratore di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ha detto, insomma, manderemo allo sportello anche i dirigenti pur di avere personale sufficiente a far fronte alle domande. Quindi il tema è questo, che le domande sono tante. C'è anche da dire che sono arrivati anche chiarimenti fino all'ultimo, nel senso che ancora la scorsa settimana è uscita una circolare delle entrate che ha dato una serie di indicazioni pratiche. Ci sono ancora dei problemi che riguardano per esempio il rilascio del DURC, che è documento fondamentale per le imprese che lavorano con gli appalti. Il documento che attesta la regolarità del versamento dei contributi previdenziali. Esattamente, e le imprese che fanno istanza di definizione agevolata oggi si vedono bloccato il rilascio del DURC per un problema proprio pratico, perché hanno dei carichi pendenti con l'agente della riscossione, quindi non sono pienamente in regola. Allora è chiaro che di fronte a questo problema e anche ad altre incertezze, insomma, applicative, c'è anche una vasta schiera di contribuenti che potrebbero essere interessati ad aderire e che sono, per così dire, un po' in attesa in questo momento, o che magari si sono decisi soltanto all'ultimo. Ecco allora l'esigenza della proroga. Ci fermiamo, c'è il traffico e ritorniamo sulla rottamazione, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali tra pochissimo. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Un Cuore Denari un po' speciale questa mattina. Per l'approfondimento di denari ci stiamo occupando della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ma possiamo magari, Nicoletta, già anticipare anche il tema che affronteremo con per quello che riguarda il cuore. Sai che questa è una settimana particolarmente ricca di appuntamenti, anche oggi. Ogni giorno abbiamo ricordato una giornata particolare. Oggi è in agenda, ho messo un fiocchetto di colore lilla, perché questo è il simbolo della giornata di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, un problema molto spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dalla famiglia di chi ne è affetto, e paurosamente in crescita. Ne parleremo con un esperto e questa sarà anche l'occasione per riflettere sul rapporto che abbiamo con il cibo, perché siamo quello che mangiamo, ma anche siamo anche come mangiamo. E quindi questa giornata, che è proprio dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, vuole anche sensibilizzare ciascuno di noi a guardare un po' e riflettere sulle scelte, sulla relazione che ha proprio con il proprio cibo. A proposito di appuntamenti, oggi invece è la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, mentre la settimana prossima, il 21, ci sarà la giornata europea del consumatore, per cui per mettere insieme due appuntamenti li faremo incontrare a metà strada. Fra qualche giorno noi ci occuperemo delle battaglie italiane delle associazioni dei consumatori, chiedendo naturalmente ai nostri ascoltatori che tipo di relazione hanno con queste organizzazioni che ormai sono diffuse capillarmente su tutto il territorio, ci aiutano molto, ci risolvono tanti tanti problemi, appunto, e quindi vi racconteremo qualcosa di più. Oggi molte battaglie si giocano soprattutto a Bruxelles, ci hanno raccontato, e quindi appunto ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Oggi ritorniamo invece alle nostre questioni, problematiche, rogne fiscali. Quindi abbiamo chiamato Cristiano Dell'Oste. Bene, grazie dell'invito. Prego, grazie a te per aver aderito. Aderire è la parola giusta per l'approfondimento di oggi, la appunto rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata. Allora, chi può aderire a questa iniziativa da parte dell'amministrazione fiscale? Cristiano, ricordiamo, appunto, noi in genere parliamo di persone che hanno un arretrato con gli adempimenti fiscali, che non riescono a rispettare. In realtà dobbiamo definire per bene questa platea di potenziali destinatari di questo provvedimento, che sta già aderendo in massa alla rottamazione. Parliamo di persone che hanno ricevuto cartelle esattoriali in che periodo? Allora, noi parliamo della possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati a Equitalia tra il 2000, 1 gennaio 2000, e il 31 dicembre del 2016. Quindi questa è la prima cosa importante da tenere presente. Noi non parliamo delle cartelle notificate, ma parliamo dei carichi affidati all'agente della riscossione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbe esserci qualche contribuente che ha dei carichi rottamabili, cioè delle pendenze con Equitalia che può definire in via agevolata, che non gli sono ancora state notificate, ma che sono state affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre del 2016. Quindi cosa bisogna fare? In questi casi? In questi casi bisogna informarsi presso gli sportelli di Equitalia e vedere quali sono i carichi effettivamente pendenti. Quindi questa è la prima È la prima indicazione importante. Poi bisogna capire che cosa si esatto. va a definire in via agevolata, cioè agevolata ma quanto. E allora in questo caso è bene tenere presente che ovviamente questa è una sanatoria, ma è una sanatoria che consente di non pagare le sanzioni e gli interessi, pesantissimi interessi di mora. Bravissima, e gli interessi di mora. Il resto, cioè inteso come capitale, interessi, spese per anche il recupero, anche l'aggio per la riscossione, il tanto contestato aggio sulla riscossione, ecco, queste cose devono essere certo. pagate. Quindi questo ci pone già un grosso problema di valutazione di convenienza per tutti quei soggetti che hanno attualmente in corso delle rateazioni con Equitalia, perché nelle ultime manovre finanziarie sono state introdotte possibilità di allungare molto la rateazione fino anche a 10 anni. Allora in questi casi chi sta pagando delle piccole rate su un grosso debito deve valutare se gli conviene fare la definizione agevolata, perché questa definizione agevolata può avere al massimo soltanto 5 rate che vanno a scadere entro settembre del 2018, quindi si va a pagare tutto sommato abbastanza in fretta, 3 quest'anno e 2 l'anno prossimo, quindi anche questo c'è da considerare, che il primo carico importante arriva quasi tutto nel 2017. Esatto. E poi in alcuni casi dove c'è un piano di rateazione in corso e si è già pagata una parte del debito e una parte delle sanzioni, per il contribuente e anche per il professionista può non essere facilissimo sapere a quanto ammonta lo sconto. Quindi io faccio domanda e poi devo attendere che Equitalia mi comunichi i conteggi. Esatto. Peraltro, a proposito del discorso che facevamo prima sulla proroga, proprio in virtù del fatto che arriva il provvedimento di proroga per la presentazione delle domande, di conseguenza arriverà anche la proroga dei termini entro i quali la riscossione ci dice sì, hai diritto o no alla rottamazione. Quindi esatto. mentre prima era contemplata a fine maggio, adesso va a finire a metà giugno? Sbaglio. Esattamente, così dovrebbe essere. Ad oggi Equitalia deve rispondere ai contribuenti entro il 31 di maggio con il provvedimento di proroga che dovrebbe arrivare, che arriverà, che è stato annunciato, Equitalia risponderà entro il 15 di giugno. Dopodiché... Esatto, si parte col pagamento della prima rata se si accetta subito a luglio. Esattamente, mi pare. Si parte con il pagamento della prima rata. Qui è arrivata una precisazione importante nei giorni scorsi da Equitalia per chi avesse delle rate in corso, perché una delle domande che spesso si fanno, poi ricorderemo anche il forum del Sole 24 Ore, sì. una delle domande che spesso fa qualcuno è: ma scusate, io ho una rottamazione in corso. Una dilazione in corso delle rate che tutto sommato mi convengono. Faccio istanza per Equitalia per la definizione agevolata. Scopro, dopo che mi ha risposto l'agente della riscossione, che non è vantaggioso come credevo. Esatto. Posso tornare indietro? Allora, in questo caso sì, non pagando la prima rata di luglio, io vado avanti con la mia rateazione. Perché è come se avessimo chiesto un preventivo per una prestazione professionale. Adesso chiaramente sono un po' forse certo, superficiale certo. nel giudizio, però un calcolo questa. Di convenienza esatto. ho il diritto di averlo. Attenzione però, perché chi invece comincia a pagare poi va a scontrarsi con una normativa estremamente severa, per cui basta un ritardo di un solo giorno nel pagamento. Che ti vanifica, ti manda per aria tutta la... Si decade dalla rottamazione e non si ha più diritto di rientrare nella vecchia dilazione. Quindi chi comincia a pagare faccia bene i propri conti e sia ben sicuro certo. di poter sostenere le rate. Hai visto, altrimenti... insomma, fisco amico ma mica tanto. Beh, qui si è parlato spesso di condono, no? Sì. Ci sono state un po' di polemiche. Questo non è un condono, questa è una sanatoria che esatto. permette di avere alcuni benefici, non tutti. Allora, intanto ci dobbiamo fermare, zitti zitti quatti quatti, qua siamo arrivati alle 10:56 ed è tempo di dare di nuovo la linea alla regia per andare ad ascoltare il giornale radio, poi ricorderemo il famoso forum appunto delle Sole 24 Ore, nel quale è possibile inviare delle domande, ottenere delle risposte su questa operazione, e poi sì, per chi ce lo chiede, vi racconteremo che cosa sta succedendo al catasto fra qualche minuto. 600 milioni di euro di finanziamenti, 380 tra i migliori ricercatori italiani, 7000 eccellenze europee, tra cui 6 premi Nobel. Sono alcuni dei numeri di IRC, i fondi messi a disposizione dal Consiglio Europeo della Ricerca. Un progetto che compie 10 anni, traguardo che l'altra Europa festeggia all'Università di Padova con una puntata live. Sono Federico Taddia e vi aspetto sabato 18 marzo alle 12 presso l'aula Nievo di Palazzo Bo a Padova per conoscere i campioni della scienza in Italia e scoprire insieme l'Europa delle opportunità. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora qualche minuto dedicato alle questioni di denari di oggi. Abbiamo scelto di ritornare sul tema della rottamazione appunto dei nostri carichi fiscali pendenti, tutti quelli che sono stati, Cristiano Dell'Osta aiutami, iscritti a ruolo sono e quindi per affidati, cui affidati a ruolo. Affidati a Equitalia entro fine 2016. Eccoci qua, e come sapete c'è la possibilità appunto di chiedere di pagare tutto quello che c'è di arretrato in questo senso, chiedendo appunto l'adesione a questa definizione agevolata fiscale. Si può fare fino a fine marzo, ma presumibilmente arriverà una proroga per la metà di aprile, quindi si riaprono i termini, si può fare la domanda fino a metà aprile e poi l'agenzia appunto della la riscossione ci potrà rispondere se accetta o meno la nostra proposta di adesione entro metà giugno, dopodiché si paga la prima rata appunto a luglio. Ho proprio sintetizzato al massimo tutta l'operazione della quale si discute in questi giorni, perché appunto la proroga della rottamazione delle cartelle di Equitalia è il tema di cui parlano i giornali in questi giorni. Un provvedimento dovrebbe arrivare, non si sa bene con quale veste diciamo legislativa, detto questo arriverà. Avete fatto un forum al Sole 24 Ore, Cristiano, che domande sono arrivate da parte dei contribuenti interessati alla questione? Sì, esatto, noi abbiamo avuto aperto nei giorni scorsi un forum sollecitando le domande dei lettori. Tra l'altro colgo anche l'occasione per dare appuntamento con le risposte alla giornata di venerdì, quando sia sul quotidiano nella sezione norme tributi che sul sito www.ilsole24ore.com/forumcartelle metteremo appunto un po' di risposte alle domande dei lettori. Anzi, lo sciopero dei giorni scorsi ha comportato un ritardo anche nella pubblicazione delle domande, quindi mi fa piacere, grazie Deborah che me lo chiedi, magari dare già qualche piccola risposta almeno alle domande più rapide. Per esempio, c'è chi ha chiesto se è possibile chiedere la rottamazione di sanzioni amministrative che riguardano l'emissione di assegni senza autorizzazione. Qui la risposta è no. No. Perché tu lo sapevi già? No, scusami, mi sembra che sapevi? L'hai scritta tu la domanda? Ho fatto domanda e risposta. No, perché da un po' ho letto e ho sentito Cristiano, mi sembrava un perché po' fuori. Diciamolo. Studio, perché essendo una bestia, mia mamma mi diceva sempre: sei una bestia, studio. Ma non è vero, mi dà tante soddisfazioni questa ragazza. Guarda. No, diciamo la ragione è che si possono rottamare le sanzioni tributarie o contributive, non quelle di tipo diverso, come quella riguardante in questo caso appunto l'emissione di assegni senza autorizzazione. Per esempio, in una delle edizioni precedenti dei forum c'era chi aveva chiesto se poteva rottamare sanzioni emesse dal comune di tipo amministrativo, ad esempio per l'estrazione illegale di ghiaia dal greto del fiume. Ecco, quelle sono sanzioni non rottamabili. Hai per caso estratto della ghiaia dal greto del fiume illegalmente? Non puoi rottamare un nulla. Perché se poi ti è arrivata la tipologie sono tante, insomma. Ma quali sono le più originali? Questa della ghiaia lo era sicuramente. Un'altra domanda curiosa è quella del lettore che dice, chiede se può rottamare una cartella relativa all'IRAP del 2004, quindi parliamo ormai di parecchi però anni fa. Però nei tempi ci siamo, esatto, teoricamente. E dopo il pagamento chiederne la restituzione, ma perché non dovuta. Ma infatti c'è questa storia della restituzione, ce la stanno sottoponendo anche alcuni ascoltatori. Per esempio, 349, questo è un tema che si pone per l'IRAP, perché l'IRAP è stato oggetto negli ultimi anni di molte sentenze della Cassazione riguardanti la mancanza del presupposto di quel requisito che si chiama autonoma organizzazione. In sostanza, tutta una serie di professionisti o l'IRAP di piccoli... è l'imposta sulle attività produttive, esatto, delle aziende. Esattamente. Sì. Però viene pagata anche da professionisti o piccoli imprenditori che operano magari con un dipendente part-time o condividendo lo studio con altri soggetti. Quindi o i l'avevano medici versata, che hanno la segretaria in comune. Non dovevano... Esatto, in questi casi negli anni la Cassazione ha chiarito che alcune tipologie di professionisti o di piccoli imprenditori non la devono pagare. Allora, in questo caso che cosa succede? Succede che abbiamo un contribuente che ha ricevuto la cartella perché aveva ricevuto un avviso di accertamento, poi non l'aveva impugnato, quindi si è arrivati lui fino alla cartella. Lui in buona fede sapeva di non dover dare nulla. Poi negli anni la Cassazione ha chiarito che lui non deve pagare e quindi lui dice, io a questo punto potrei, per liberarmi della procedura che ormai è partita, perché la riscossione va avanti, definire. Poi, siccome nel frattempo si è chiarito che io non la dovevo pagare, andare a chiedere il rimborso. Sì. In questo caso la risposta è negativa, perché... la norma stabilisce che tutto ciò che tu versi per fare la definizione agevolata poi non lo puoi più restituire, non puoi più chiederne la restituzione. È tombale. Esatto, quindi in questo caso, siccome presumo che il nostro lettore non abbia contestato l'avviso di accertamento se si è arrivati fino alla cartella, e ormai per lui è tardi, diciamo che o lui paga l'intero accettando la riscossione o fa la definizione agevolata, però non potrà più chiedere, a meno che, dico recupero. Io così si imbarchi in un contenzioso di tipo legale, fiscale, fino ad arrivare ai massimi gradi della però se giustizia siamo alla competente. Cartella potrà far valere solo i vizi della cartella, quindi eventuali vizi di notifica, cose minori. No, se uno che si impunta magari cerca delle strade, trova un buon legale che dice voglio arrivare magari ad una pronuncia definitiva su questo. Bisogna vedere anche gli importi, perché Cristiano, poi se sono piccoli importi magari non gli conviene. Quello, cioè, anche quello, evidentemente, come parametro di valutazione della convenienza di avvio di certi contenziosi. Senti un po' il tema delle multe, va, definiamolo una volta per tutte, perché è stato sempre un punto caldo delle nostre trasmissioni dedicate a questo argomento. Allora, si possono rottamare o no? Perché qua il tema era, se non mi ricordo male, a quali enti il comune affida la riscossione degli arretrati. Esatto, qua abbiamo un doppio tema. Da un lato dobbiamo dire che nel caso delle multe, siccome la multa è la sanzione stessa, non è che viene azzerata la sanzione, viene azzerata soltanto la componente degli interessi. Ciò nonostante ci possono essere contribuenti che hanno comunque un vantaggio a farlo, ma affinché si possa procedere bisogna che in alternativa o il comune si sia appoggiato ad Equitalia, questo è un principio che vale per tutti i tributi, sì, diciamo locali, e allora in quel caso automaticamente io posso fare la rottamazione senza bisogno che il comune decida alcunché. Oppure in alternativa occorre che il comune, che procede tramite ingiunzione o che magari ha un proprio agente della riscossione alternativo, abbia deliberato di voler aderire a questa procedura di definizione agevolata. Questo riguarda anche ad esempio la tassa rifiuti, l'IMU, la TASI, la vecchia ICI, che è ancora ovviamente in contestazione in questi anni oggetto di riscossione, e insomma tutta una serie di altri tributi anche minori, certo, degli enti locali. Allora Nicoletta, a proposito, c'era qualche cosa di interessante che avevamo notato prima su WhatsApp e che magari vale la pena girare a Cristiano. C'era un ente previdenziale, sì, che ci scrive se si può rottamare il bollo auto. Poi adesso vado a prenderlo. Allora, sì, l'unica pendenza che ho in sospeso è con Inarcassa. Posso fruire anch'io della rottamazione o eventualmente altre possibilità di agevolazione? Ci scrive Davide. Allora, partiamo dalla coda. No, per quanto riguarda Inarcassa no, ma per un motivo tecnico che Inarcassa, da quanto insomma abbiamo riportato anche sul Sole 24 Ore, non emette più ruoli, quindi non si appoggia più a Equitalia dal 99. Ah. Quindi, siccome la definizione agevolata parte per i ruoli affidati dal 2000, Inarcassa dovrebbe essere fuori. Quindi, per questa sua pendenza, non potrà applicare la definizione agevolata. Esattamente, dovrà seguire le regole previste dalla sua cassa. Uh-huh. Questo è un punto. Poi, più in generale, c'è un problema per quanto riguarda i debiti contributivi con le casse professionali, perché in questo caso la norma non è chiarissima, perché è vero che sono rottamabili i contributi, però la norma parla anche di enti pubblici, mentre le casse sono degli enti privati vigilati dal Ministero dell'Economia, quindi sono per così dire un po' in una zona grigia, e ci sono anche posizioni diverse tra le diverse casse. Per esempio la cassa forense ha dato una indicazione positiva, ha comunicato agli iscritti la possibilità di rottamare le cartelle. La cassa dei commercialisti invece ha diffidato Equitalia dall'accettare richieste in questo senso, quindi qui si dovrà arrivare poi a una posizione comune, perché diciamo le casse sono un po' un punto incerto. Diciamo che chi avesse fretta di aderire alla definizione agevolata dovrebbe verificare quantomeno presso l'ente di riferimento, presso la sua cassa, qual è la posizione, certo, ufficiale in questo senso, oppure in alternativa aspettare la proroga. Certo, ecco. Andando ai termini operativi delle modalità di pagamento, come si effettuano i versamenti nel caso in cui la riscossione appunto accetti la nostra domanda di rottamazione? Si parte, dicevamo, il 1 luglio con la prima una rata, poi le altre quando arrivano, Cristiano, i bollettini ci arrivano direttamente dalla riscossione oppure dobbiamo compilare noi dei moduli nudi e crudi lì e quindi imbarcarci anche magari in qualche altro rischio di errore? Ecco, allora questa che tu hai fatto è una domanda importante, al di là della modalità pratica di pagamento che poi vediamo. Alcuni lettori più volte nei diversi forum hanno chiesto se è possibile pagare la rottamazione in compensazione, cioè utilizzando dei crediti che si vantano nei confronti dell'erario. La risposta è negativa. Questo dobbiamo avere ben presente, che chi fa la rottamazione... Quanto faciliterebbe la vita ai contribuenti il fisco se solo permettesse tante modalità di compensazione, appunto. Vabbè, detto questo... No, in questo caso bisogna attingere alla liquidità, diciamo così. Da questo punto di vista... Non c'è molto da quindi niente compensazioni. Detto questo, invece, nel caso in cui la definizione agevolata è stata accettata, ci arriva direttamente il bollettino. Allora, detto questo, nel caso in cui la come dire, tra l'altro io continuo a dire la riscossione, ma chiamiamola Equitalia così almeno non facciamo confusione. Allora, c'è questo modulo che è il modulo con cui si presenta l'istanza, che poi tecnicamente si chiama DA01, definizione agevolata 01, è un modello in cui si va a indicare se si vuole versare in un'unica soluzione, perché in alcuni casi quando il debito non è grande può essere anche più semplice chiudere tutto in una volta. Si può scegliere 5 rate con la scansione delle rate. Che sono luglio, settembre e novembre 2017, poi la quarta rata andrà saldata entro aprile 2018, l'ultima a settembre appunto dell'anno prossimo. Esattamente, le prime tre sono più pesanti, sono il 24% del dovuto, poi il 23% e il 23%. Quindi circa il 70% alla fine. Esatto, si paga il 70% nel 2017 e il restante 30% in due rate ad aprile e settembre del 2018, due rate dal 15% ciascuna. È proprio una definizione agevolata, insomma, questo aggettivo bisogna vedere se è proprio pertinente. Dicevamo delle modalità di pagamento. Nell'ambito di questa domanda il contribuente potrebbe anche chiedere la domiciliazione sul conto corrente degli importi, magari quando non sono importi grandi e si vuole evitare il pagamento, oppure in alternativa si dovrà procedere direttamente con il pagamento diretto, quindi con i bollettini. Allora, il bollo vi interessa? Ah, sì, è giusto. Un problema di Adriana, che sa di avere un bollo non pagato del 2011. Le è stato detto che è stato messo a ruolo, non la so. Finora non ho ricevuto nessuna raccomandata. Che devo fare? Dorme sonni tranquilli. Tra l'altro è proprio la giornata del sonno venerdì, ma noi di sonno parleremo proprio domani, così lancio. Dipende così dal bollo. Arrivano alla giornata fresca e riposati. Ecco, allora, da questo punto di vista dobbiamo stare attenti, perché il bollo... Un iPad, Cristiano, con cui lavora. Non appena noi diciamo, pronunciamo una parola, lui subito: ma su che sito stai lavorando? Perché ci andiamo a caccia? No, sul nostro. Ah, ecco. Certo. Il sito del Sole, ovviamente. Dopo quattro giorni di sciopero avete avuto modo di arricchire la banca dati. Certo. Guarda il cannino. Figurati, massima solidarietà. Bene, no, diciamo che allora, per quanto riguarda il bollo regionale, qui stiamo parlando di un tributo che è di competenza delle regioni. Allora, ci sono regioni, come ad esempio la regione Lombardia, che hanno abbandonato Equitalia, è una cosa che è stata fatta appunto qualche anno fa. Allora, in questo caso bisogna andare a vedere se il singolo ente ha deciso di concedere la possibilità di rottamare o meno, un po' come per il comune, stiamo parlando di un ente autonomo. Il fatto che la nostra ascoltatrice parli di ruolo fa pensare che si trovi in una regione che non ha ancora abbandonato Equitalia, quindi può teoricamente procedere con la rottamazione. Quindi da questo punto di vista siamo a posto. Poi il fatto che lei dica non mi è ancora stato notificato nulla potrebbe cadere in una di quelle situazioni in cui il carico è stato affidato ma la cartella non le è ancora stata notificata. È comunque rottamabile, ovviamente andando a riscontrare presso Equitalia con quale debito si tratta. Certo. Allora, senti, sempre Gerry, a proposito delle multe, perché prima abbiamo sollevato la questione generica delle multe, sperando di essere chiari anche per questo ascoltatore, che in realtà ha un caso un po' particolare. Vediamo se ce la facciamo a rispondergli, perché lui parla appunto del Comune di Milano E quindi dobbiamo capire se il Comune di Milano appunto affida i ruoli a Equitalia o meno, ricade nel caso in cui ci raccontavi poco fa, quindi la regione Lombardia che non affida più. No, attenzione, un conto è la regione, un conto è il comune. Ok, quindi, attenzione. Allora, dal 2012 ha ricevuto queste due multe che risalgono al 2012, 90 euro cada una, sono diventate dopo 5 anni 200 euro l'una. Non aveva, sostiene Gerry, ricevuto a suo tempo nessun avviso, ma il mese scorso ha ricevuto un'ingiunzione di pagamento. Come si deve comportare? Allora, teoricamente, essendo un'ingiunzione di pagamento, deve andare a vedere. Allora, quindi diciamo così: la prima verifica è capire se sull'atto ricevuto dal contribuente c'è l'intestazione Equitalia o meno. Dove c'è l'intestazione, l'atto è rottamabile, quindi si ricade nelle regole generali. Dove non c'è l'intestazione, ad esempio perché in questo caso si è proceduto con ingiunzione di pagamento, bisogna andare a verificare se l'ente locale ha deliberato di aderire o meno alla rottamazione. Il Comune di Milano, adesso lo verifichiamo meglio per non dire cose imprecise, credo sia uno dei comuni che non hanno intenzione di aderire alla rottamazione. Qui ci sono molti enti che l'hanno fatto e ancora anche non per l'ha fatto sapere, pur essendo no, no, credo di sì. Adesso ecco, appunto, sto andando a memoria, ecco, mi riservo di guardarlo, ma dovrebbero averlo precisato proprio a livello di adesso giunta, lo cerchiamo. Perfetto. Senti, vorrei farti un paio di domande anche su questa faccenda della riforma del catasto, visto che peraltro è il tuo tema sul quale sei specializzato, tutto ciò che attiene alla fiscalità immobiliare. Cristiano appunto è il grande esperto del Sole 24 insieme ad altri colleghi del tema. Ti chiedo se sul tema invece della rottamazione abbiamo secondo te detto tutto quello che è necessario sapere in questo momento, se vanno fatte ulteriori precisazioni per i nostri amici contribuenti che sono un po' preoccupati, magari stanno ancora così nel limbo, stanno provando a cercare di informarsi per capire se conviene o no imbarcarsi nel fare la domanda, aspettare la risposta e rovinarsi le vacanze col pagamento della prima rata di luglio. No, credo che più o meno i punti fondamentali li abbiamo toccati, poi rimandiamo magari alla pubblicazione appunto delle risposte a chi da parte di chi ci ha scritto sul giornale di venerdì e online sul sito del Sole. Insomma, mi raccomando questa con la ghiaia sui greto dei fiumi. No, ma questa è una domanda vecchia, questa ha già avuto la sua risposta. Ricordiamo che anche i nostri amici da casa possono fare le domande, non solamente al Sole ma anche a Cuore Denari, perché è il mese della pancia da noi. E il fisco ne fa venire un po' di mal di pancia, per cui noi per questo abbiamo aperto lo sportello. Abbiamo deciso di aprire questo sportello anche per questa ragione. Allora, intanto andiamo un po' all'altro tema. Riparte la riforma del catasto, intitola Il Sole 24 Ore questa mattina. Mi sono andata a cercare un po' di vecchie scalette per capire quando fosse stata l'ultima volta in cui ho trattato l'argomento, perché sembrava pronta, fatta una riforma lì dietro l'angolo. Questa puntata risale al novembre del 2015, Cristiano, quindi l'anno scorso non ci siamo mai sentiti su questo tema. È morta? Che fine ha fatto? Oppure è stata approvata e non ci ha detto niente nessuno? Che cosa è successo? Che cosa contemplava questa grande idea di riorganizzazione appunto del catasto degli immobili del nostro paese? Raccontaci un po' quali novità aspettano i proprietari di immobili in Italia. Ma diciamo che la riforma del catasto c'era, nel senso che era una bozza di decreto legislativo praticamente pronta per essere approvata, poi all'ultimo il Consiglio dei Ministri aveva ritenuto, eravamo a giugno del 2015, di non procedere con l'approvazione e di non mettere in moto questa macchina che poi, lo ricordiamo, avrebbe bisogno di qualche anno per completare il suo percorso, perché le ipotesi sono nell'ordine dei 5 anni, magari abbreviabili, ma comunque questa è la durata di cui si parla. Cos'è accaduto di nuovo? È accaduto che, come riportiamo nell'articolo di Marco Mobili sul Sole 24 Ore di oggi, c'è l'ipotesi di inserire la riforma del catasto nel PNR, Piano Nazionale delle Riforme, che dovrebbe essere varato in contemporanea con il DEF entro il 10 aprile e che conterrà sostanzialmente un pacchetto di riforme che l'Italia promette a Bruxelles contestualmente alla manovra e al piano, insomma, di finanza pubblica dei prossimi anni. Allora, in questo caso l'idea è di andare a recuperare il lavoro che era stato fatto, il lavoro preparatorio che era stato fatto dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia un paio d'anni fa, e di accendere effettivamente i motori alla riforma. E questo consentirebbe anche magari di procedere con un po' di accelerazione rispetto a questa idea che è in cantiere da un sacco di tempo, visto che c'è un lavoro già pronto da quale partire. Diciamo una cosa, che tutti i nodi politici che avevano portato a fermare la riforma un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa, quando ci sono, si è fermata, tutti. E sono ancora tutti lì. Belli stretti. È cambiato il governo nel frattempo, quindi questo potrebbe già determinare una soluzione diversa. Però diciamo che se c'era il timore che le nuove basi imponibili avrebbero creato un aumento dei tributi, beh, ecco, quel timore è ancora lì. Ah, facciamo un passo indietro, Cristiano, lasciando da parte della, la politica, che in genere proviamo a non farla entrare a cuore denari. Andiamo a, così alla spiegazione del perché sarebbe necessario fare questa riforma del catasto. Che cos'è il catasto? Per chi non ne avesse mai sentito parlare, perché non è che insomma a pranzo, a cena, a colazione in famiglia si parli ricorrentemente di questo argomento. Certo. Perché però ci interessa come proprietari di immobili? Ma diciamo che il catasto è questo grande registro in cui sono riportati i dati e le consistenze di tutti gli immobili italiani. Sono oltre 60 milioni di unità immobiliari, diciamo di non di fabbricati, perché ci sono anche appunto i singoli appartamenti, però oltre 60 milioni di unità immobiliari urbane, le chiama il quasi catasto. Una testa in media, secondo la media di Trilussa, praticamente ne abbiamo una testa, anche che più siano piccoli. Che siano box auto o grandi palazzi, insomma la media dice uno a testa. E all'interno del catasto ci sono anche le consistenze, quindi quello che è, per così dire, l'elemento base su cui viene poi determinata la fiscalità, perché dalla rendita catastale del fabbricato si arriva poi a determinare il suo valore imponibile, sia quando lo si va a compravendere e non si ricade nell'ambito IVA, dove invece le tasse si pagano sul prezzo, ma come sappiamo bene le compravendite tra privati hanno come base imponibile il valore catastale, e poi il valore catastale è la base imponibile su cui si vanno ad applicare l'IMU e la TASI, quindi i tributi immobiliari. Qual è il problema? Il problema è che i valori catastali che usiamo noi oggi sono frutto di una fotografia del mercato immobiliare che è stata scattata nel biennio 1988-89. Certo, ma questo perché? Perché i proprietari, i contribuenti non adeguano anche magari quando fanno un lavoro. Io anche per fare un piccolo lavoro di ristrutturazione qualche anno fa ho subito adeguato, con l'ausilio dell'architetto naturalmente, sì, diciamo, il valore catastale, quindi c'è chi non lo fa ancora questo lavoro? Ma diciamo che questo però ha un effetto marginale. Il grosso del problema è che l'impianto del catasto è fatto così. E quindi si è partiti con quei valori, non li si è più aggiornati, perché ovviamente non può toccare solo a chi fa dei lavori nella propria abitazione, deve essere il sistema che interviene. Infatti. Cristiano, a tempo debito ne parleremo. Quando la riforma finalmente ci sarà, raccontaci tutto, perché naturalmente saremo pronti qua a reinvitarti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Velocemente la borsa e poi andiamo al nostro tema di cuore tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme dopo aver dedicato tante puntate al cibo, all'alimentazione, per così ricordare il ruolo che quello che mangiamo svolge nel mantenere e promuovere la salute. Oggi ci dedichiamo in modo particolare al rapporto che ci lega al cibo, perché l'occasione ce la fornisce naturalmente la giornata di oggi. Il fiocchetto di colore lilla è il simbolo della giornata di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare e è anche un'occasione per riflettere sulla relazione che abbiamo con il cibo, anche se ci sembra una relazione assolutamente sana e ce lo auguriamo. Sappiamo che è una relazione che è condizionata da tante variabili: l'età, la situazione, lo stato emotivo, l'ambiente. Ciascuno di noi può sperimentarlo quando siamo molto preoccupati o stressati o tanto felici o innamorati. Probabilmente la nostra dieta, la nostra alimentazione cambia. C'è chi magari mangia di più, chi diventa inappetente, chi sceglie alcuni alimenti, esclude altri. Insomma, possiamo anche riflettere su questo aspetto. Potete mandarci i messaggi al 349-238-6666, ma l'intento di oggi è quello di focalizzare la nostra attenzione su questo problema in crescita. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare, riguardano in modo particolare le donne, le giovani donne, ma la situazione sta coinvolgendo, si sta allargando, e oggi noi ne parliamo con un grande esperto, un medico, psichiatra, nutrizionista che coordina le attività cliniche di ricerca al Centro per Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano e ha un blog che è molto seguito. Qui in studio con noi il dottor Stefano Erzegovesi. Buongiorno dottore, grazie per essere di nuovo qua. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro siamo nel cuore della settimana del cervello e mi piacerebbe tornare a condividere con i nostri amici da casa una riflessione che sarà ovvia, banale, scontata, ma che mi piace ribadire, e cioè che quello che mangiamo influisce sulla nostra salute sicuramente, ma anche sul buon funzionamento del nostro cervello. Quindi possiamo anche chiederci se stiamo attraversando un periodo in cui ci sentiamo particolarmente stanchi, irritabili, poco concentrati, se alla base di questi cambiamenti c'è un cambiamento della nostra dieta. Dottore Zelgovesi. Assolutamente sì, nel senso il cervello è la sede in cui si decide quanto noi abbiamo bisogno di mangiare, cioè la sede in cui nascono gli stimoli della fame e la sazietà, ma è anche vera la via contraria. Cioè quello che noi mangiamo influisce in maniera molto specifica su quello che è il funzionamento del cervello. Un tempo si diceva mangiare bene fa bene, appunto, avere il colesterolo giusto, la pressione giusta, sì, avere un buon livello di forma fisica. Ad oggi ci sono sempre più dati scientifici che dicono che come noi mangiamo influenza in maniera assolutamente specifica anche gli aspetti di tipo l'umore, per cui tutto l'aspetto depressivo, ad esempio, sicuramente influenza tutti gli aspetti legati all'ansia. Mangiare bene ci rende meno ansiosi e più in grado di reggere lo stress. Influenza moltissimo la nostra capacità di riposare bene. Una buona alimentazione, quello che io chiedo sempre ai pazienti nel momento in cui mangiano meglio, gli chiedo come si sente la mattina quando si sveglia. Se una persona ha cambiato il modo di mangiare, normalmente dice mi sento in maniera diversa, mi sento con un livello energetico molto più forte e molto più in grado di affrontare la giornata. Allora, dottor Zegovesi, parliamo della giornata di oggi, che è una giornata che è nata su iniziativa di un papà. Vogliamo sì. partire da questa storia, perché è una storia triste, ma che è anche un'espressione di resilienza. Da un problema serio che la famiglia ha dovuto affrontare è nata proprio il desiderio di portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo problema, e quindi anche dalla consapevolezza indicare anche delle possibili soluzioni, soprattutto i campanelli d'allarme. Dottore Zegovesi. Certo, purtroppo sì, il punto da cui partire, che è poi la storia che ci lega a questo papà e alla figlia che è mancata per un disturbo alimentare, è che comunque di disturbi alimentari si muore. I disturbi alimentari sono la terza causa di mortalità tra i giovani, tolti gli incidenti stradali e le malattie tumorali, quindi è un problema veramente grande. Quindi mai pensare nel momento in cui abbiamo un figlio o una figlia che si atteggia in maniera più o meno ossessiva o fissata sul corpo o su quello che mangia, mai pensare che è un capriccio che passerà perché è un momento. È una cosa fondamentale su cui prenderci il tempo di riflettere e soprattutto prenderci il tempo di pensare che può essere comunque un problema molto serio. Verissimo che questo papà ha trovato la forza, al posto semplicemente di vivere il lutto privatamente, ha trovato la forza di usare l'occasione, oggi è il giorno in cui è mancata la figlia, ha trovato l'occasione all'interno di questo momento per poter dire approfittiamo per sensibilizzare l'Italia, sensibilizzare tutti sul fatto che comunque certo. c'è una necessità, che è una necessità di avere presente che questo problema esiste, avere presente che ci sono delle cose che vanno fatte per curare questo problema e avere presente che ci sono delle cose che dobbiamo osservare nei nostri figli, nei nostri amici, per sapere cosa fare nel momento in cui ci sembra di sospettare un problema di questo tipo alimentare. Quindi ai genitori grande attenzione. Non è facile, dottor Zegovesi, perché la maggior parte delle ragazze, dei ragazzi con disordine alimentare non sono consapevoli di avere un disturbo e interpretano le preoccupazioni dei genitori, i consigli, come delle ingerenze, e quindi è molto difficile anche per un genitore saper toccare le corde giuste e intervenire. Ma andiamo a quelli che sono i segnali che dobbiamo imparare a conoscere per non sottovalutare. Sì, partiamo da quello che dicevamo adesso. Stiamo parlando di adolescenti. Gli adolescenti per loro natura sono persone che ci dicono non capisci niente, sono grande, lasciami stare, ma in realtà dicendomi non capisci niente, lasciami stare, ci stanno chiedendo aiuto. Quindi prima cosa dobbiamo essere in grado di tradurre un linguaggio adolescenziale, che è un linguaggio per sua natura di apparente scontro, ma in realtà di grande bisogno di vicinanza nel momento in cui c'è un'identità che si sta formando. Detto questo, c'è una quindi cosa... quel ti odio, non voglio vederti, non voglio sentirti, tu mi rompi solo le scatole, non capisci nulla, si conta fino a 10 e si cerca di cambiare proprio assetto, di è tradurre. Una richiesta d'aiuto, di tradurre. Ti odio, lasciami stare, non capisci niente, io ormai sono grande, a 18 mangio anni me ne vado, mangio quello che voglio, non vedo l'ora di... Ho bisogno di te. Mi secca dirlo perché sono un bambino che sta diventando un adulto, però ho bisogno di te. E allora se ho bisogno di te io devo esserci. Prima cosa da fare, osservare in maniera non invasiva, cioè non serve diventare un investigatore che comincia a origliare al bagno piuttosto che guardare di soppiatto a tavola come sta mangiando nostra figlia. Se abbiamo il dubbio che comincia a mangiare meno, se vediamo visibilmente il peso che sta scendendo, cerchiamo di parlarne. E qui secondo me è il primo punto fondamentale. Cerchiamo di parlarne, ma cerchiamo di farlo come coppia genitoriale. Non funziona se noi con un adolescente pensiamo di dire te ne parlo io, non dirlo al papà, piuttosto che faccio parlare papà e però non facciamo che non lo sappia mamma. La coppia genitoriale si confronta su questo tema, stabilisce che c'è qualcosa che effettivamente sta cambiando nella propria figlia, che può essere che mangia meno, che può essere, al di là dell'aspetto strettamente alimentare, cambia proprio, sembra cambiare il carattere. Diventa più chiusa, diventa più cupa, non parla più a tavola, diventa molto più irritabile, tende a rimanere molto più isolata a casa, fa più fatica a uscire con i compagni. In questo caso i genitori, qualunque siano i problemi che all'interno di una coppia genitoriale ci possono essere, per quello che riguarda la salute della propria figlia, dicono su questa cosa ci confrontiamo. C'è un'alleanza. Ci alleiamo e portiamo il problema. Secondo noi c'è qualcosa che non va. Lasciamo stare il... sei troppo magra, mangi poco, perché su questo tema, se c'è un disturbo anoressico che sta iniziando, c'è scarsissima consapevolezza da parte della ragazza. Quindi non è che non voglia riconoscerlo, proprio non riesce, non ce la fa ancora a capire cosa sta succedendo. Molto meglio dire, secondo noi c'è qualcosa che nella tua vita che sta cambiando, ma sta cambiando in un modo che ci sembra che non stai bene come stavi bene prima. Facciamo qualcosa. Questo come punto di partenza. Abbiamo parlato al femminile, dottor Zegovesi, ma il problema si sta allargando a includere anche i ragazzi, gli adolescenti, e anche a scendere drammaticamente di età, perché parliamo di adolescenti, riferendoci a una ragazzina o un ragazzino di 16-17 anni, ma i dati ci dicono, ma è lei che ha i dati sotto mano sicuramente, che inizia a interessare anche bambine e bambini molto piccoli, alla fine del ciclo dell'elementare, i primi anni delle medie. Mi chiedo quanto questo bombardamento, o non solamente dell'immagine di che ci vuole la moda, molto sottili come le modelle, ma anche di questa attenzione così eccessiva sul cibo come salute, attenzione alla qualità, alla quantità, possa in qualche modo nelle persone predisposte, in un ambiente magari con dei fattori di rischio presenti e non valutati, possa incidere anche sulla situazione. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Cuore e denari. Stavamo chiacchierando in studio perché i disturbi del comportamento alimentare sono un problema, blitz, così. Un problema davvero serio, riguarda in prevalenza le donne, le giovani donne, abbiamo detto adolescente, ma si sta allargando, si sta abbassando l'età, e c'è una sorta anche, ne parlavamo col dottor Erzegovesi a microfono spento, anche una sorta di anoressia di ritorno, quindi può colpire anche donne già mature che in qualche modo si trovano ad affrontare questo rapporto conflittuale, possiamo dire malato, nei confronti del cibo. Dottor Erzegovesi, che cosa è importante sapere? Vorrei proprio sfruttare questi minuti della nostra trasmissione per dare le indicazioni senza allarmismi, ma concretamente che cosa possiamo fare? Certo, sì, riprendo il discorso dell'incidenza della patologia, cioè tipicamente si dice sesso femminile, età tra i 15 e i 25 anni è tipicamente l'area più sensibile ai disturbi alimentari. Verissimo che c'è un'età che si sta abbassando, per cui cominciamo a vedere persone che ancora non hanno avuto il ciclo, che comunque hanno questo tipo di problema, e questo è un problema molto serio perché può bloccare la crescita se non c'è stato il ciclo mestruale, quindi la crescita ossea. Ci sono persone di sesso maschile che normalmente sembrano essere meno sensibili, che comunque tendono ad aumentare rispetto al classico 10% che si dice in letteratura. Ci sono le persone adulte, normalmente persone o ipersalutiste sul cibo che hanno avuto uno sfumato disturbo alimentare in età adolescenziale, ma che poi se la sono cavata, hanno avuto famiglia, figli, lavoro e tutto quanto, normalmente in concomitanza a eventi di vita, che può essere un lutto, che può essere una delusione importante sul lavoro, riparte l'ossessione, quindi riparte la sensazione di dover stare attenti al cibo, eccetera. La magrezza in una persona di 40-50 anni, chiaramente con le risorse mentali di una persona di 40-50 anni, può essere un problema molto più difficile da curare, perché in qualche modo sono, tra virgolette, meno malleabili di certo. quello che può essere un adolescente nella cura. Allora, parlate anche di bulimia, ci scrive Barbara, per piacere. L'altro lato del problema, non meno grave, solo che è più subdolo, ha tante sfaccettature: vomito, obesità, digiuni per intere giornate fino alla buffata serale, e così non si ingrassa e non si vede. Ma è un problema di pari gravità e forse più difficile da trattare, solo che non si muore e quindi viene trascurato. Questo, Barbara, ha anticipato un po' la domanda, che l'aspetto che volevamo trattare, quindi parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, naturalmente è inserita anche la bulimia. Assolutamente, è importantissimo, per cui diciamo anoressia, abbiamo detto, evidente e immediatamente evidente, perché chiaramente c'è una magrezza che non si può nascondere. La bulimia però in realtà si è portati a pensare che la bulimia sia in qualche modo l'opposto dell'anoressia. In realtà la bulimia è esattamente, da un punto di vista del modo di pensare, l'altra faccia dell'anoressia. Ci sono molti studi scientifici che parlano di continuità anoressico-bulimica come se fosse un unico disturbo. Nella bulimia cosa succede? Che io mi rendo conto che perdo il controllo con il mangiare, mi vergogno molto proprio perché mi rendo conto di questo che mi succede, e quindi tendo a farlo in maniera molto nascosta. Di nascosto da tutti gli altri. E questo però vuol dire che possono passare anni, decine di anni. Io ricordo persone di 30 anni che mi dicevano, non so, sono sposata da 5 anni, ma mio marito neanche si immagina che io possa avere un disturbo bulimico. E questo, molti studiosi parlano di epidemia nascosta quando si parla di bulimia, proprio per questo motivo. Non si muore, però attenzione, anche la bulimia può essere un disturbo molto grave, perché tutte le conseguenze fisiche legate al vomito, e quindi il fatto di perdere potassio, di perdere sali minerali, spesso sono motivi di rischio, tipicamente di rischio per arresto cardiaco, per cui di rischio che può essere a tutti gli effetti ugualmente un rischio vita, anche se il peso non è così basso. Allora, che fare? Abbiamo individuato... Supponiamo ci sia un problema, spesso non sappiamo a chi rivolgerci, e quindi questo in qualche modo vanifica la possibilità di andare a risolvere il problema, perché, ecco, lo diciamo, si può risolvere questo problema, per questo dobbiamo assolutamente intercettarlo nei segnali iniziali. Sì. Dottor Erzegovesi, gli ultimi minuti di trasmissione. Assolutamente sì, si può risolvere. Possiamo dire che metà dei disturbi alimentari guarisce completamente, dove per completamente vuol dire la ragazza che arriva da me in studio col bimbo in braccio, che mi dice mi devo occupare di lui, e ci pensi se ho tempo per occuparmi delle calorie o di altre cose. C'è un 25% che migliora molto e che quindi si trova fondamentalmente ad avere una vita quasi normale da un punto di vista della vita, del lavoro, della famiglia o della vita di coppia, ma che continua a avere sintomi residui, per cui magari non riesce ad andare al ristorante, non riesce a fare pasti con imprevisti. C'è però un 25% che cronicizza, e che, come tutti i disturbi che cronicizzano, sono disturbi a rischio vita. Mediamente il 10% dei disturbi alimentari può esitare nella morte, quindi comunque un problema molto importante. Però diciamo, se tre quarti del disturbo si può curare bene e nella metà si può guarire completamente, diciamo cosa fare. O meglio, diciamo prima cosa non fare. Non andiamo dallo specialista singolo, cioè che può essere solo vado dal dietologo e solo vado dallo psicologo. Andiamo in un centro che si occupi in maniera cosiddetta integrata e multidisciplinare del disturbo alimentare. Quindi almeno ci deve essere un medico, un nutrizionista e uno psicologo, che lavorano assieme e che si parlano tra di loro, e che quindi hanno un approccio integrato. Fatto questo, si tratta di andare in un centro specializzato, o tramite il mio pediatra di base o il mio medico di base, Oppure c'è un sito del ministero che si chiama disturbialimentarionline.it dove ci sono tutti i centri divisi per area geografica in Italia e a cui noi possiamo comunque rivolgerci. Ma il ragazzo, la ragazza, la persona, la giovane donna deve accettare, diventare consapevole del suo problema per poterne uscire, non la si può trascinare. In questi casi, dottor Erzegovesi, come convincerla? Credo che questo sia il passo più importante. Purtroppo il tempo non ci ha alleato, ma io un'indicazione per questi casi. Sì, assolutamente un cenno su questo perché è il punto di inizio fondamentale. Se c'è una coppia genitoriale compatta nel proporre una richiesta d'aiuto, normalmente comunque viene accettato e viene ascoltato dalla ragazza. A me capita nel 90% dei casi di vedere ragazze anoressiche che mi dicono mi ci hanno portato, ma in realtà in quel mi ci hanno portato bisogna subito mettere in evidenza che ci sono già due anime che combattono all'interno della ragazza, per cui c'è un'anima che dice la magrezza è la soluzione a tutto, ma c'è già al momento in cui anche ci dice lasciami stare un'anima che dice in realtà sento anch'io che non ce la faccio più. Noi dobbiamo fare presente, esplicitare che quest'anima c'è e dire che per quest'anima noi possiamo fare qualcosa che la può comunque sostenere ed aiutare a ritrovare la strada. Grazie dottor Erzegovesi, quindi mi piace chiudere su un problema così serio con un messaggio assolutamente positivo, ce la facciamo, ce la possiamo fare, assolutamente. Ci sono tutti gli strumenti, l'importante è capire, conoscere la situazione perché dall'informazione è proprio il primo passo per la prevenzione. Grazie dottor Erzegovesi, grazie noi a voi. Torniamo domani. Esattamente, giovedì, scuola di risparmio, attenzione, ritorna peraltro il nostro professore originario Gianni Lupotto. Allora io non so se vi farò dormire bene oppure torneremo a parlare di cervello, magari anche con gli alimenti anti-ansia che chiederemo gli ascoltatori al dottor Erzegovesi, magari domani con una telefonica. Ottimo, a domani. Buona giornata.